È ben difficile che, chiamandosi morte e malattia, una università attiri a sé quei giovani e quei soldi che costituiscono il suo alimento prediletto, ed è così che l'Università del San Raffaele di Milano si chiama non morte e malattia, ma vita e salute. Fino ad ora a questa vita e a questa salute provvedevano due sole facoltà, medicina e psicologia. Da oggi, come se non ce ne fosse già abbastanza sia nella medicina che nella psicologia, si è provveduto ad inaugurarvi anche la facoltà di filosofia. L'iniziativa è di preti cattolici della categoria degli illuminati e dunque fra i docenti non mancherà Cacciari, che da un po' di tempo in qua della categoria è assiduo frequentatore fino al limite, diciamo, dell'indispensabilità. Fra questi docenti di questa nuova facoltà ci sarà pure Roberta De Monticelli, docente dell'Università di Ginevra, cui per l'occasione Barbara Palombelli dedica un'intervista sul Corriere della Sera. L'Italia ha bisogno di nuovi filosofi, afferma la De Monticelli. E i giovani hanno necessità di capire la realtà in cui sono immersi. La filosofia italiana, e lei, sarebbe rimasta prevalentemente legata alla storia, allo studio del passato, e lei vorrebbe invece legarla alla scienza. Solo così si riuscirà ad evitare che la gente finisca in massa dal mago, dallo stregone, dal guru. Elenco cui, per rispetto di chi la pagherà, non aggiunge il prete. Messe così le cose, i valori risultano chiaramente distribuiti. Allora, dalla parte di quelli positivi c'è l'Italia, che sempre più spesso va prendendo il posto del paese di centrosinistrata memoria. C'è la filosofia, è un noto bisogno. I giovani, il capire la realtà, la scienza. E vabbè, per omissione di contrasto, i preti. Dalla parte dei valori negativi c'è la storia e il passato, quel che rimane della gente dopo aver sottratto i giovani assatanati di filosofia, i maghi, gli stregoni e i guru, un'associazione di bersagli che sembra la Croce Rossa. Allorché si tratta di definire un po' meglio di che filosofia sta parlando, la signora non va oltre l'elogio della fenomenologia, che in altro non consisterebbe se non nel fermarsi e osservare. Come se l'osservazione non fosse già il risultato di una decisione presa, di alcune categorizzazioni, di calcoli e di teorie consapevoli o inconsapevoli che siano a chi sta osservando. Grazie alla fenomenologia, conclude allora la Palombelli, potremmo sperare di liberarci dalle magie televisive, dalle messe nere e dalle superstizioni dilaganti, e con l'assicurazione che loro, i filosofi, stanno per l'appunto lavorando in vista di questo risultato, l'intervista è bella e finita. Non credo che le cose possano essere messe in questi termini. Credo anzi che sarebbe più opportuno considerarle al contrario. Il successo di maghi, stregoni, guru e preti, mi scuserà la professoressa se io l'elenco lo fornisco completo, deriva dritto dritto dalla filosofia e dalle sue pretese fallimentari. Perché, vedete, chi si arroga l'assurdo diritto di capire la realtà, magari tramite un punto di vista neutrale in grazia di chissà chi, chi si arroga questo diritto dovrebbe spiegarci cosa sia questa benedetta realtà e in base a quali criteri si possa stabilire il momento in cui è stata capita o non capita. Se questa spiegazione non ce la fornisce, come non ce la fornisce l'intera storia dell'epistemologia, cioè che poi è la teoria della conoscenza, la base della filosofia, va da sé che non solo sorgano, ma prosperino gli uffici dei maghi, degli stregoni, dei guri e dei preti. ho detto dei guri, dei guru, al plurale sarà da guru, e dei preti. Allora, grazie alla filosofia, non nonostante. La professoressa insegna a Ginevra. In Italia, prima che le apparisse Don Cacciari, dice che non c'era mai stato posto per lei. E subito spiega il perché. Dice: il sistema di reclutamento organizzato dalla cultura di sinistra era fondato sul piccolo mondo locale. Beh, io solo per un'asserzione del genere la lascerei a Ginevra, chiedendomi come fanno i ginevrini a non rimandarcela qua. Innanzitutto sembra credere all'esistenza storica di una cultura di sinistra che non si sa bene che sia, in un paese in cui, non so, la sinistra che abbia bazzicato appena il governo o era rappresentata da un manipolo di ladruncoli rispettosi del patto che imponeva loro di rubare un po' meno dei democristiani, o era rappresentata da zelanti servitori dei potentati economici. Beh, in un paese così nessuna cultura di sinistra ha mai avuto alcun potere, né di decidere di raccattare i filosofi per l'Università di Milano non oltre la cerchia dei Navigli, né di decidere di andarli a prendere a Timbuktu. Poi la professoressa afferma indirettamente che la sua presenza qui oggi la dobbiamo soltanto ad una cultura che, non essendo più quella di sinistra, beh, si potrebbe presumere essere quella di destra, quella che un tempo per l'appunto portava i propri capitali all'estero per paura dei comunisti, come insiste in questi giorni reinventandosi la storia al Corriere della Sera, e che oggi questi capitali li riporta indietro, per l'appunto da Ginevra a Milano. Per quanto ne so, c'è stata una sola occasione nella storia del nostro paese in cui si è seriamente parlato in alto loco, diciamo così, dell'abolizione dell'insegnamento della filosofia. Non dico nelle università, che sarebbe forse sperare troppo, ma nei licei almeno sì. All'inizio del Novecento fu istituita una regia commissione di studiosi con il compito di approntare una riforma della scuola media. Di questa commissione faceva parte Giovanni Vailati, filosofo e metodologo della scienza, che da solo sostenne la tesi che sarebbe stato un bene per tutti smettere di insegnare filosofia. Vailati ricorda l'episodio in una lettera da Crema del 22 agosto del 1908 a Papini, e dice che se fosse stato fatto un referendum fra gli studenti in proposito, avrebbe vinto sicuramente, ma la sua tesi non avrebbe mai avuto il sostegno dei professori. Perché? Perché i professori o sono professori di filosofia e allora tacciono per non essere tacciati di fedifraghi dai colleghi, o sono professori di altre materie e allora, per paura forse di sembrare troppo positivisti, ora che la moda, diceva Vailati, sospinge nella direzione opposta, fanno grandi lodi della filosofia, che nella loro beata e scientifica ignoranza identificano con ciò che si insegna dai professori della medesima. Vailati è troppo ottimista e ce l'ha su più con i professori di filosofia che non con la filosofia medesima. Si sarebbe forse ricreduto se avesse potuto leggere una definizione della filosofia, che sembra una perifrasi di quanto da lui affermato, che è stata formulata da Richard Rorty in un libro dell'86, Conseguenze del pragmatismo, tradotto nell'86, libro dell'82, e Rorty è uno che passa come un grande filosofo americano e quando deve definire il suo lavoro dà una definizione, diciamo, che toglie ogni speranza a chiunque nella filosofia si sia impelagato, perché dice: filosofia è solo qualsiasi cosa facciamo noi professori di filosofia. Prende piede la missione di fragilità relativamente alla disciplina che ti dà il pane. Sul calco della risposta di Rorty si può leggere che chiunque sia addestrato in un dipartimento di antropologia è un antropologo. lo riferisce Clifford Geertz in Antropologia e Filosofia, ma per bontà sua e serenità nostra, perlomeno, almeno lui, se ne dichiara insoddisfatto. Lo stesso Corriere della Sera, che, dimenticandosi dei preti, ingaggia una crociata contro maghi, stregoni e guru, intervistando la filosofa, raccontava ieri di un tragico evento a Cologno Monzese. Collaboratrice familiare clandestina, così viene definita, ecuadoriana assassina con le mani, la sua anziana datrice di lavoro. Come nel famoso racconto di Edgar Allan Poe, i vicini hanno sentito frasi senza senso, urla in spagnolo, urla in italiano, invocazioni del maligno, imprecazioni e bestemmie, e quando la porta è stata finalmente aperta dai carabinieri per la vittima non c'era più nulla da fare, mentre per la giovane ecuadoriana, la ecuadoriana assassina, da fare ce n'era parecchio. In preda alla follia, come in un rituale satanico, racconta il giornalista, che raccogliendo le testimonianze dei vicini in forma di quel che chiunque sa già, sì, e cioè che fino a che l'evento non era accaduto, la situazione, guarda un po', era apparentemente tranquilla. Ovvio, potrebbe fermarsi qui, ma giusto per dimostrare ancora una volta che le crociate contro maghi, stregoni e guru, per non parlare dei preti, ben si coniugano con le campagne promozionali dei medesimi, aggiunge una frase. Una situazione apparentemente tranquilla, dice, fino a venerdì 17, dopo 17 giorni di lavoro. Prima ancora di farsi un'idea dell'eziologia del delitto, che potrebbe essere stato innescato da mille motivi tutti ragionevolmente comprensibili, la cultura del venerdì 17 ha già preso il sopravvento.